Le vie verso il progresso e lo sviluppo dell'umanità passano per l'accesso ai saperi e alla conoscenza. Parole di Nabil Ben Abdallah, ministro delle comunicazioni marocchino, che ha aperto ufficialmente questa mattina la preconferenza in vista del summit mondiale sulla società dell'informazione che si terrà a Tunisi nel novembre del 2005. Una conferenza che punta i riflettori sui media nel continente africano e nel mondo arabo. In questo senso il Marocco ha qualcosa da dire. Il regno di Mohammed VI ha infatti inaugurato un processo di riforme nel panorama mediatico nazionale. Due importanti leggi sono state varate, la prima che crea un'autorità indipendente sull'audiovisivo, la seconda che mette fine al monopolio dello Stato in materia di radio e televisioni. Un terzo testo è in via di approvazione e darà vita al lancio rapido delle prime radio regionali e comunitarie, specialmente nelle zone rurali. Nell'ufficialità degli interventi non sono mancate le critiche. Aidan White, presidente della Federazione Internazionale dei Giornalisti, richiama la platea sul focus del summit. Abbattere il digital divide non è una questione puramente tecnica e bisogna porre l'accento sui contenuti e sulla creazione di quel tessuto sociale e culturale che permette alla tecnica di avere un impatto sulla società. Duro l'intervento del direttore dell'International Press Institute, Johan Fritz, molto critico sulla scelta di Tunisi come luogo che ospiterà l'evento nel 2005. Secondo Marc Furet, segretario di Stato e direttore dell'Ufficio federale svizzero per la comunicazione, Internet deve essere considerato come un complemento, utile ma non prioritario, per lo sviluppo dei mezzi di comunicazione tradizionali. Secondo Furet, sono comunque da stigmatizzare le ingerenze dei governi nel controllo della rete delle reti. Tra gli speaker anche Jean Réveillon, segretario generale della European Broadcasting Union, l'organismo europeo che raccoglie i rappresentanti dei servizi pubblici, secondo cui, chiusa la prima fase a Ginevra nel 2003, la partita per una migliore comunicazione è solo al primo tempo e che per vincerla è necessaria una vasta alleanza tra media del nord e del sud del mondo, compresi i media comunitari, ormai comunemente definiti come media del terzo settore audiovisivo. Di fronte a una platea di questo tipo non poteva mancare la macchina propagandistica del presidente tunisino Ben Ali, che tramite mandanti ben organizzati ha messo in piedi un dossier farsa sui diritti umani e la libertà di espressione in Tunisia. In questo senso c'è da segnalare la nascita di un neologismo tutto adatto alla situazione tunisina. Si tratta di GONGOS, ovvero le governmental NGOs, le organizzazioni non governative del governo. Una contraddizione in termini, come anche libertà di stampa in Tunisia. Da Marrakech, Francesco Di Asio per Anisnet, linea allo studio.